Capitolo 7 luglio, brodo di coda di bue. Ingredienti: 2 code di bue, una cipolla, 2 spicchi di aglio, 4 pomodori, 250 g di taccole, 2 patate, 4 peperoni moritas. Preparazione: le code tagliate si fanno bollire con un pezzo di cipolla, uno spicchio di aglio, sale e pepe. È bene mettere più acqua di quella che useremmo per il bollito, perché non ci si dimentichi che stiamo facendo un brodo. E un brodo che si rispetti deve essere brodoso, senza per questo cadere nell'acquoso. I brodi possono guarire qualsiasi malattia fisica o mentale, perlomeno questo era quanto credevano Cencia e Tita, anche se per molto tempo Tita non ci aveva creduto abbastanza. Ma ora non poteva fare a meno di considerare vera questa credenza. 3 mesi prima, dopo aver assaggiato un cucchiaio del brodo che Cencia le aveva preparato e portato a casa del dottor Brown, Tita aveva riacquistato tutto il suo senno. Era appoggiata al vetro e guardava dalla finestra Alex, il figlio di John, che rincorreva i colombi in cortile. Udì i passi di John che saliva le scale. Aspettava con ansia la sua visita quotidiana, perché le parole di John erano il suo unico legame con il mondo. Se avesse potuto parlargli e dirgli quanto erano importanti per lei la sua presenza e la sua conversazione, se avesse potuto scendere e baciare Alex come il figlio che non aveva, e giocare con lui fino a sentirsi spossata, se almeno avesse potuto ricordare come si cuociono 2 uova, se avesse potuto gustare una pietanza qualsiasi, se avesse potuto tornare alla vita. Sentì un odore che la scosse. Era un odore estraneo a quella casa. John aprì la porta e si presentò con un vassoio in mano e un piatto di brodo di coda di bue. Un brodo di coda di bue. Non poteva crederci. Dietro John entrò Cencia in un mare di lacrime. L'abbraccio che si diedero fu breve per evitare che il brodo si raffreddasse. Quando beve il primo sorso, Nacha le venne accanto e cominciò ad accarezzarle la fronte mentre mangiava, come faceva con Tita da piccola quando era malata, e a baciarla più volte sulla fronte. Oltre a Nacha, vi erano anche i giochi della sua infanzia in cucina, dopo che erano andate al mercato. Le tortillas appena cotte, i noccioli di ciabacano colorati, le focacce di Natale, la sua casa, l'odore di latte bollito, di paste alla crema, di ciampurrado, di comino, di aglio, di cipolla. E nel sentire l'odore della cipolla, le lacrime fecero come sempre la loro comparsa. Pianse come non aveva più fatto dal giorno della nascita. Quanto le fece bene chiacchierare a lungo con Nacha. Come ai vecchi tempi, quando Nacha era ancora viva e avevano preparato insieme un'infinità di volte il brodo di coda di bue. Risero rivivendo quei momenti e piansero ricordando le fasi successive della preparazione di questa ricetta. Finalmente era riuscita a ricordare una ricetta, rammentando per prima cosa il soffritto di cipolla. La cipolla e l'aglio si tritano finissimi e devono soffriggere in poco olio fino a imbiondire. Si uniscono poi le patate, le taccole e il pomodoro tritato e si fanno insaporire. John interruppe questi ricordi entrando bruscamente nella stanza, allarmato dal rigagnolo d'acqua che scorreva lungo le scale. Quando si accorse che si trattava delle lacrime di Tita, John benedisse Cencia e il suo brodo di coda di bue per aver ottenuto ciò che nessuna delle sue medicine era riuscita a ottenere, far piangere Tita in quel modo. Dispiaciuto per essersi intromesso, stava per ritirarsi quando la voce di Tita glielo impedì, quella voce melodiosa che non aveva proferito parola in 6 mesi. John, non se ne vada, per favore. John le rimase accanto e fu testimone di come Tita passò dalle lacrime al riso, ascoltando per bocca di Cencia ogni sorta di disavventura e di pettegolezzo. Il medico apprese così che mamma Elena aveva proibito a tutti di far visita a Tita. Nella famiglia della Garza si potevano perdonare molte cose, ma avere disobbedito ai genitori e aver messo in discussione il loro comportamento, questo proprio no. Mamma Elena non avrebbe mai potuto perdonare che Tita, matta o non matta, le avesse dato la colpa della morte del nipote. E allo stesso modo aveva vietato che si pronunciasse anche il nome di Gertrudis. Nicolas, a proposito, era tornato da poco con sue notizie. Effettivamente l'aveva trovata a lavorare in un bordello. Le aveva consegnato i suoi vestiti e Gertrudis aveva mandato una lettera a Tita. Cencia gliela consegnò e Tita la lesse in silenzio. Cara Tita, Non sai come ti ringrazio per avermi mandato i vestiti. Per fortuna ero ancora qui, ho fatto in tempo a riceverli. Domani lascerò questo posto perché non fa per me. Non so ancora dove andrò, ma so che troverò una sistemazione. Sono capitata in questo luogo perché mi sentivo bruciare da un fuoco intensissimo. L'uomo che mi ha raccolto mentre correvo per i campi mi ha salvato praticamente la vita. Un giorno spero di rincontrarlo. Mi ha lasciata perché stava esaurendo le sue forze vicino a me, senza riuscire a placare questo mio fuoco interiore. Finalmente, adesso, dopo che un'infinità di uomini sono passati per il mio corpo, provo un grande sollievo. Forse un giorno tornerò a casa e ti potrò spiegare. Tua sorella Gertrudis, che ti vuole bene. Tita ripose la lettera nella tasca del vestito e non fece nessun commento. Il fatto che Cencia non le chiedesse nulla sul contenuto della lettera indicava chiaramente che l'aveva già letta, per filo e per segno. Più tardi, Tita, Cencia e John asciugarono insieme la stanza, le scale e il pian terreno. Tita, nel salutare Cencia, le comunicò la sua decisione di non tornare mai più alla fattoria e le chiese di informarne sua madre. Mentre, senza rendersene conto, seguitava ad andare e venire per il ponte tra Eagle Pass e Piedras Negras. Cencia pensava quale fosse il modo migliore per dare la notizia a mamma Elena. Le guardie dei due paesi la lasciarono fare perché la conoscevano fin da quando era bambina. Era molto buffo, del resto, vederla camminare avanti e indietro mentre parlava da sola e si mordicchiava lo scialle. La donna sentiva che la sua capacità di inventiva era paralizzata dal terrore. Qualsiasi versione dell'ambasceria avrebbe sicuramente fatto infuriare mamma Elena. Doveva inventarne una in cui almeno lei ne uscisse bene. Ma prima era necessario trovare una scusa per giustificare la visita che aveva fatto a Tita. Mamma Elena non ne avrebbe bevuta nessuna. La conosceva bene. Invidiava Tita per aver avuto il coraggio di non tornare più alla fattoria. Magari avesse potuto fare lo stesso anche lei, ma non ne aveva il coraggio. Fin da bambina aveva sentito parlare di come finiscono male le donne che disubbidiscono ai genitori o ai propri padroni e che se ne vanno di casa. Finiscono per sguazzare nelle acque immonde della vita licenziosa. Continuava a cincischiare lo scialle nervosamente, cercando di spremergli la migliore delle bugie da usare in momenti simili. Non l'aveva mai delusa. Quando arrivava alla centesima cincischiata di scialle, trovava sempre la frottola adatta all'occasione. Per lei mentire era una tecnica di sopravvivenza che aveva imparato sin dal suo arrivo alla fattoria. Era molto meglio raccontare che padre Ignazio l'aveva messa a chiedere l'elemosina, piuttosto che ammettere che le si era rovesciato il latte mentre chiacchierava al mercato. Il castigo che si meritava era completamente diverso. Alla fin fine ogni cosa poteva essere vera o falsa, dipendeva se uno ci credeva o meno. Tutto quello che si era immaginato, per esempio, sulla sorte di Tita, si era rivelato sbagliato. In tutti questi mesi si era angosciata pensando agli orrori che Tita avrebbe subito fuori dalla cucina di casa sua, circondata da pazzi che gridavano oscenità, legata dentro una camicia di forza e costretta a mangiare chissà quale tipo di cibo disgustoso lontano da casa. Immaginava i pasti in un manicomio e per di più gringo, come la peggior cosa del mondo. Invece aveva visto che Tita stava abbastanza bene, non aveva mai messo piede in un manicomio, veniva trattata benissimo in casa del medico e non doveva aver mangiato poi così male, visto che le aveva notato perfino qualche chiletto in più. Ma benché avesse mangiato, la verità è che non le avevano mai dato nulla che assomigliasse al brodo di coda di bue, di quello era ben sicura, altrimenti perché avrebbe pianto in quel modo mentre lo beveva. Povera Tita, in quel momento stava sicuramente piangendo di nuovo, tormentata dai ricordi e dall'idea di non tornare più a cucinare accanto a Cencia. Sì, stava sicuramente soffrendo molto. Non le sarebbe mai venuto in mente di immaginarsela come invece era, bellissima, con addosso un vestito di raso cangiante con i pizzi, mentre cenava alla luce della luna e riceveva una dichiarazione d'amore. Per la mente tormentata ed esagerata di Cencia, questo sarebbe stato troppo. Tita era seduta vicino a un falò e faceva arrostire il malvavisco, un dolcetto morbido e gommoso. Accanto a lei c'era John Brown che le chiedeva di sposarlo. Tita, per festeggiare la sua guarigione, aveva accettato di accompagnare John a una festa all'aperto in una fattoria vicina. Per l'occasione John le aveva regalato uno splendido vestito che aveva comprato tempo prima a San Antonio, in Texas. Il suo colore cangiante le ricordava le piume che le colombe hanno sul collo, ma ormai, senza più alcuna associazione con il dolore provato il lontano giorno in cui si era rinchiusa nella colombaia. Ora, completamente rimessa, era disposta ad iniziare una nuova vita a fianco di John. Sigillarono il loro fidanzamento con un tenero bacio sulle labbra. Tita non sentì quello che aveva provato quando Pedro l'aveva baciata, ma sperava che la sua anima, per tanto tempo coperta di muffa, riuscisse a poco ad accendersi accanto a questo uomo meraviglioso. Finalmente, dopo aver camminato per 3 ore, Cenci aveva trovato la soluzione. Come al solito aveva pronta la bugia adeguata, avrebbe detto a mamma Elena che andando a passeggio per Eagle Pass si era imbattuta in una mendicante sporca e stracciata. La compassione l'aveva spinta ad avvicinarsi per darle 10 centesimi e, sconvolta, aveva scoperto che si trattava di Tita. Tita era fuggita dal manicomio e vagava per il mondo scontando la colpa di aver insultato la madre. Lei l'aveva invitata a tornare, ma Tita aveva rifiutato. Non si sentiva degna di vivere nuovamente vicino a una madre così buona e le aveva chiesto di dire per favore alla mamma che le voleva molto bene e che mai avrebbe dimenticato tutto ciò che aveva fatto per lei e prometteva, quando fosse diventata una donna per bene, di ritornare da mamma Elena per darle tutto l'amore e il rispetto che meritava. Cencia pensava di coprirsi di gloria con questa bugia, ma purtroppo non ci riuscì. Quella sera, dopo il suo arrivo a casa, un gruppo di banditi attaccò la fattoria. Cencia fu violentata e mamma Elena, tentando di difendere il suo onore, ricevette un forte colpo sulla schiena che le provocò una paraplegia e rimase paralizzata dalla vita in giù. Non era quindi nelle condizioni adatte per ricevere quel tipo di notizie e nemmeno Cencia era in grado di dargliele. D'altra parte, era stato un bene che non le avesse detto nulla, perché di fronte alla splendente bellezza e all'energia di Tita, la quale era tornata alla fattoria non appena appresa la notizia, la sua pietosa frottola sarebbe stata scoperta. La madre l'accolse in silenzio e per la prima volta Tita sostenne fermamente il suo sguardo, mentre mamma Elena abbassò il suo. C'era negli occhi di Tita una luce strana. Mamma Elena non riconosceva più sua figlia. Si scambiarono mutui rimproveri senza parlarsi e con questo si spezzò quel forte legame di sangue e di ubbidienza che fino a quel momento le aveva unite e che mai più si sarebbe ristabilito. Tita sapeva bene che la madre si sentiva profondamente umiliata per il fatto di doverla accettare di nuovo in casa e di avere inoltre bisogno delle sue cure per ristabilirsi. Pertanto cercava con tutto il cuore di fare del suo meglio, cucinava con molta attenzione per la madre e le faceva specialmente il brodo di coda di bue, con la sana intenzione che servisse a ristabilirla completamente, come era successo a lei. Versò il brodino, già mescolato alle patate e alle taccole, nella pentola dove aveva fatto cuocere le code di bue. Bisognava far bollire gli ingredienti tutti insieme, solo per mezz'ora. Poi si ritira il brodo dal fuoco e si serve ben caldo. Tita servì il brodo e lo portò alla madre su di un bel vassoio d'argento coperto da un tovagliolo di cotone a frange, perfettamente candeggiato e inamidato. Tita attendeva con ansia la reazione positiva della madre appena avesse bevuto il primo sorso, ma mamma Elena, al contrario, sputò l'alimento sulla coperta e gridò a Tita di toglierle immediatamente da davanti agli occhi quella roba. Ma perché? Perché è schifosamente amara, non la voglio. Portatela via, non mi hai sentito? Tita, invece di ubbidire, fece un mezzo giro tentando di nascondere agli occhi della madre il sentimento di frustrazione che provava. Non capiva l'atteggiamento di mamma Elena, non l'aveva mai capito. Sfuggiva alla sua comprensione che un essere umano, indipendentemente dalla parentela che potesse avere con un altro essere, così senza un motivo plausibile, respingesse in modo tanto brutale una gentilezza. Perché era certa che il brodo fosse squisito. Lei stessa l'aveva assaggiato prima di portarglielo e non poteva essere altrimenti, poiché ci aveva messo un grande impegno a prepararlo. Si sentiva una vera stupida per il fatto di essere tornata a casa ad accudire sua madre. Sarebbe stato meglio rimanere in casa di John, senza pensare più a quello che poteva capitare a mamma Elena. Ma sapeva che sarebbe stata assalita dai rimorsi. L'unico modo per liberarsi veramente di lei era che morisse. Ma mamma Elena non sembrava intenzionata a farlo. Aveva voglia di scappare, di andare lontano, lontanissimo, per proteggere dalla gelida presenza della madre il piccolo fuoco interiore che John, con molta fatica, era riuscita ad accendere in lei. Era come se lo sputo di mamma Elena fosse finito proprio al centro della fiammella nascente e l'avesse estinta. Soffriva dentro di sé gli effetti del suo spegnersi. Il fumo le saliva alla gola e formava una spessa nube che le offuscava la vista e la faceva lacrimare. Aprì bruscamente la porta e si mise a correre nel preciso momento in cui John arrivava per la visita medica. Si scontrarono malamente. John la sostenne tra le braccia appena in tempo per evitare che cadesse. Il suo caldo abbraccio salvò Tita da un congelamento. Rimasero uniti solo per pochi istanti, ma furono sufficienti a riconfortare l'anima di Tita. Tita cominciava a pensare che il vero amore fosse quella sensazione di pace e di sicurezza che John le infondeva, e non l'ansia e la sofferenza che provava accanto a Pedro. Con un vero sforzo si staccò da John e uscì dalla stanza. Tita, vieni qui, ti ho detto di portarti via questo! Donna Elena, non si agiti, per favore, le fa male. Le tolgo io il vassoio, ma mi dica, non ha appetito? Mamma Elena chiese al dottore di chiudere la porta a chiave e quasi in segreto gli confessò la sua inquietudine riguardo al gusto amaro del brodo. John le rispose dicendo che probabilmente era dovuto all'effetto dei farmaci che stava prendendo. Non è possibile, dottore. Se fosse colpa delle medicine avrei sempre quel sapore in bocca. Invece non è così. Mi stanno mettendo qualcosa nel mangiare. È quello che è strano da quando Tita è tornata. Ho bisogno che lei faccia delle indagini. John, sorridendo alla maliziosa insinuazione, si avvicinò ad assaggiare il brodo di codino che le aveva portato e che era ancora intatto sul vassoio. Dunque, vediamo che cosa le stanno mettendo nel mangiare. Che bontà! Qui ci sono taccole, patate, peperoncino e non riesco bene a capire che tipo di carne sia. Non sono in vena di scherzi, non sente un sapore amaro? No, donna Elena, per niente. Ma se vuole lo faccio analizzare, non voglio che si preoccupi. Ma mentre aspettiamo i risultati deve mangiare. Allora mi mandi una buona cuoca. Ma come? Hai in casa la miglior cuoca che ci sia? So che sua figlia Tita è una cuoca eccezionale. Uno di questi giorni le chiederò la sua mano. Sa bene che non si può sposare, esclamò in preda a una furiosa agitazione. John tacque. Non gli conveniva irritare ulteriormente mamma Elena e non aveva dubbi sul fatto che avrebbe sposato Tita con o senza la sua autorizzazione. Sapeva anche che Tita non era più legata a quell'assurdo destino e che appena avesse compiuto i 18 anni si sarebbero sposati. Considerò conclusa la visita, chiedendo a mamma Elena di non agitarsi e promettendo che l'indomani le avrebbe mandato una nuova cuoca. E così fece, ma mamma Elena non si degnò neppure di riceverla. Il commento del medico circa l'idea di chiedere la mano di Tita le aveva aperto gli occhi. Sicuramente tra loro due era nata una relazione amorosa. Da tempo sospettava che Tita desiderasse la sua scomparsa da questo mondo per potersi sposare liberamente, non una ma mille volte se ne avesse avuto voglia. Sentiva che questo desiderio era continuamente presente tra loro, in ogni gesto, in ogni parola, in ogni occhiata. A quel punto non c'erano dubbi che Tita tentasse di avvelenarla poco a poco per poter sposare il dottor Brown. Da quel giorno, quindi, si rifiutò decisamente di mangiare quanto Tita cucinava. Incaricò Cencia di provvedere alla preparazione dei suoi pasti. Solo lei e nessun altro poteva servirglieli e li doveva assaggiare in sua presenza prima che mamma Elena si decidesse a mangiarli. La nuova disposizione non impressionò per niente Tita, anzi fu un sollievo per lei delegare a Cencia il pesante obbligo di accudire la madre, perché in tal modo era libera di iniziare a ricamare le lenzuola del suo corredo da sposa. Aveva deciso di sposarsi con John non appena la madre fosse stata meglio. Chi invece si preoccupò molto per il nuovo ordine fu Cencia. Non si era ancora rimessa, né fisicamente né emotivamente, dalla brutale violenza di cui era stata oggetto. E sebbene apparentemente si sentisse favorita dall'essere esentata da ogni lavoro, tranne quello di preparare da mangiare per mamma Elena e di servirglielo, non fu così. In un primo momento ricevette la notizia con gioia. Ma non appena incominciarono le grida e i rimproveri, si accorse che purtroppo non c'è rosa senza spine. Un giorno in cui Cencia era andata dal dottor Brown per farsi togliere i punti che le aveva dovuto dare, perché nella violenza che aveva subito c'era stata una lacerazione, Tita preparò il pranzo in sua vece. Credevano di poter tranquillamente ingannare mamma Elena. Non appena tornata a casa, Cencia le portò il pranzo e l'assaggiò come d'abitudine. Ma appena lo assaggiò, mamma Elena sentì quel sapore amaro, lanciò il vassoio a terra con rabbia e scacciò Cencia di casa perché aveva tentato di prenderla in giro. Cencia colse questo pretesto per andare qualche giorno al suo paese. Aveva bisogno di dimenticare la violenza e l'esistenza di mamma Elena. Tita tentò di convincerla a non dare troppa importanza a sua madre. La conosceva da molti anni e sapeva bene come prenderla. Sì, bambina mia, ma perché adesso dovrei accrescere la mia amarezza se per vivere mi basta il mole? Lasciami andare, non fare la cattiva. Tita l'abbracciò e la consolò, come aveva fatto tutte le notti da quando era tornata. Non vedeva il modo di tirare fuori Cencia dalla sua depressione e dalla convinzione che ormai non l'avrebbe sposata più nessuno dopo il violento assalto infertole dai banditi. Sai bene come sono gli uomini. Tutti dicono che la minestra riscaldata non la vogliono nemmeno nell'altra vita, figurati in questa. Vedendo com'era disperata, Tita decise di lasciarla andare. Sapeva per esperienza che se fosse rimasta nella fattoria e vicino a sua madre non avrebbe avuto scampo. Soltanto la distanza poteva guarirla. Il giorno dopo la mandò con Nicolas al suo paese. Tita si vide costretta ad assumere una cuoca, ma la prima se ne andò dopo 3 giorni. Non sopportava le prepotenze e gli sgarbi di mamma Elena. Allora ne cercarono un'altra che rimase soltanto 2 giorni, e un'altra ancora, finché in paese non ne trovarono più nessuna che volesse lavorare in quella casa. Quella che restò più a lungo fu una ragazza sordomuta. Resistette 15 giorni, ma se ne andò perché mamma Elena le aveva detto a gesti che era una sciocca. A mamma Elena quindi non rimase altra scelta che mangiare ciò che Tita le preparava, ma lo faceva con le dovute precauzioni. Oltre ad esigere che Tita lo assaggiasse per prima, chiedeva sempre che le venisse portato un bicchiere di latte tiepido a ogni pasto. E se lo beveva prima di ingerire gli alimenti per contrastare gli effetti dell'amaro veleno che lei sentiva sciolto nel cibo. Talvolta bastava questa misura, ma altre volte sentiva forti dolori allo stomaco, allora beveva in aggiunta come metico un sorso di vino di pecacuana, un arbusto asclepiadaceo la cui radice ha proprietà medicinali, e uno di vino di cipolla selvatica. Non lo fece per molto tempo. Dopo un mese mamma Elena, colta da fortissimi dolori, accompagnati da spasimi e da intense convulsioni, morì. La prima Tita e John non riuscirono a spiegarsi questa strana morte, poiché a parte la paraplegia, mamma Elena non soffriva di altre malattie. Ma ispezionando il suo comodino trovarono il flacone di vino di pecacuana e dedussero che mamma Elena lo beveva sicuramente di nascosto. John spiegò che questo emetico è così forte da provocare la morte. Tita non riusciva a distogliere lo sguardo dal volto della madre durante la veglia funebre. Solo allora che era morta la vedeva e incominciava a capirla. Chi avesse guardato avrebbe potuto facilmente confondere il suo sguardo con uno sguardo di dolore, ma Tita non provava affatto dolore. Soltanto in quel momento capiva il significato della frase fresca come una lattuga. Una lattuga che fosse stata improvvisamente separata da un'altra lattuga con la quale era cresciuta, si sarebbe sentita come lei. Sarebbe stato assurdo aspettarsi che soffrisse per la separazione da una lattuga con la quale non aveva mai potuto parlare né stabilire alcun tipo di comunicazione e della quale conosceva soltanto le foglie esterne, senza sapere che all'interno ce n'erano molte altre nascoste. Non poteva immaginare che quella bocca segnata da un rictus amaro avesse un tempo baciato con passione e che quelle guance livide si fossero arrossate per il calore di una notte d'amore. Ma qualche volta doveva essere andata così. Tita lo scoprì solo allora, troppo tardi e in modo puramente casuale. Nel vestire mamma Elena per la veglia funebre, Tita le tolse dalla cintura l'enorme portachiavi che l'aveva sempre accompagnata come una catena. In casa tutto era sotto chiave e sotto rigido controllo. Senza l'autorizzazione di mamma Elena, nessuno poteva prendere dalla dispensa neppure una tazza di zucchero. Tita conosceva le chiavi di ogni porta e nascondiglio, ma oltre l'enorme portachiavi la mamma aveva appeso al collo un ciondolino a forma di cuore e dentro vi era una piccola chiave che attirò l'attenzione di Tita. Mise immediatamente in rapporto la chiave con la serratura giusta. Un giorno, quando era bambina, giocando a nascondino, si era infilata nel guardaroba di mamma Elena. Tra le lenzuola aveva scoperto un cofanetto. Mentre aspettava che venissero a cercarla, tentò invano di aprirlo perché era chiuso a chiave. Fu mamma Elena a trovarla quando aprì il guardaroba, sebbene non stesse giocando a nascondino. Era andata a prendere un lenzuolo o qualcosa di simile e la colse con le mani nel sacco. La castigò, chiudendola nel granaio e facendole sgranare 100 pannocchie di mais. Tita aveva sentito che quella mancanza non meritava un castigo così grande. Nascondersi con le scarpe tra le lenzuola pulite non era poi una cosa tanto grave. Solo ora che la madre era morta, nel leggere le lettere contenute nel cofanetto, capì che non era stata castigata per quello, bensì per aver tentato di vedere il contenuto del cofanetto e che la punizione era ben motivata. Tita aprì il cofanetto con curiosità morbosa. Conteneva un pacco di lettere di un certo José Trevigno e un diario. Le lettere erano indirizzate a mamma Elena. Tita le ordinò, secondo le date, e venne così a conoscere la vera storia d'amore della madre. José era stato l'amore della sua vita. Non le avevano permesso di sposarsi con lui perché aveva nelle vene sangue nero. Una colonia di neri fuggiti dalla guerra civile degli Stati Uniti e dal pericolo di un linciaggio era venuta ad insediarsi vicino al paese. José era il prodotto degli amori illeciti tra José Trevigno padre e una bella nera. Quando i genitori di mamma Elena avevano scoperto l'amore che era nato fra la loro figlia e quel mulatto, inorriditi, l'avevano costretta immediatamente a sposare Juan de la Garza, suo padre. Il fatto di essere sposata non le aveva impedito di continuare a mantenere una corrispondenza segreta con José e a quanto sembra non si era limitata a questo tipo di comunicazione. Stando alle lettere, infatti, Gertrudis era figlia di José e non di suo padre. Mamma Elena aveva tentato di fuggire con José quando si era accorta di essere incinta, ma la sera in cui lo aspettava, nascosta sul balcone, al buio, vide uno sconosciuto che senza un apparente motivo, col favore delle tenebre, aveva aggredito José eliminandolo da questo mondo. Dopo grandi sofferenze, mamma Elena si rassegnò a vivere a fianco del suo legittimo marito. Juan de la Garza, che per molti anni aveva ignorato tutta la storia, ne venne poi a conoscenza quando nacque Tita. Era andato in un'osteria a festeggiare con alcuni amici la nascita della nuova figlia e lì qualche lingua velenosa si era lasciata sfuggire l'informazione. La terribile notizia gli aveva provocato un infarto. Questo era tutto. Tita si sentiva colpevole di essere diventata partecipe del segreto di quelle lettere. Non sapeva che cosa farne. Pensò di bruciarle, ma chi era lei per farlo? Se sua madre non ne aveva avuto il coraggio, lei nemmeno lo aveva. Sistemò le lettere come le aveva trovate e mise tutto al suo posto. Durante il funerale Tita pianse veramente per la madre, non per la donna castrante che l'aveva repressa per tutta la vita, ma per quell'essere che aveva vissuto un amore infelice, e giurò davanti alla sua tomba che lei non avrebbe mai rinunciato all'amore, qualunque cosa fosse accaduta. In quel momento era convinta che il suo vero amore fosse John, l'uomo che le era vicino e le dava un appoggio incondizionato. Ma quando vide avvicinarsi al cimitero un gruppo di persone e fra esse riconobbe da lontano Pedro, accompagnato da Rosaura, non fu più così sicura dei suoi sentimenti. Rosaura, che ostentava un ventre enorme perché era nuovamente incinta, camminava lentamente. Appena vide Tita, le si avvicinò e l'abbracciò piangendo sconsolatamente. Poi venne il turno di Pedro. Quando Pedro l'abbracciò, il corpo di Tita vibrò come una gelatina. Tita benedisse sua madre perché le dava il pretesto di poter rivedere e riabbracciare Pedro. Subito dopo si ritrasse bruscamente. Pedro non meritava che lei lo amasse tanto, si era dimostrato un debole accettando di andare così lontano da lei e lei non poteva perdonarglielo. John prese Tita per mano durante il ritorno alla fattoria e Tita a sua volta lo prese a braccetto, facendo vedere a tutti che tra loro c'era qualcosa di più che una semplice amicizia. Voleva provocare in Pedro lo stesso dolore che aveva sempre provocato in lei quando lo vedeva a fianco di sua sorella. Pedro li osservò con gli occhi socchiusi. Non gradiva affatto la familiarità con cui John si avvicinava a Tita e quella con cui lei gli parlava all'orecchio. Che cosa stava succedendo? Tita gli apparteneva e non avrebbe mai permesso che gliela portassero via, men che meno ora che era scomparso il maggior ostacolo alla loro unione, mamma Elena. Continua, Prossima ricetta, ciampandongo.